Attenzione 23, c'è qualcuno? Ora l'ascensione è canale 23. Dove ci sì? Chi è? Che poi? Buonasera. Però piove, buonasera. Ah, la massa è fatto nuvoloso, da voi? Ah, veramente, cosa fare? Non piove o no? Non gli ha messo pioggia. Faccio un po' nuvoloso, però pioggia non gli ha messo. Già lo so. Maestrale adesso. Domani maestrale. Ma così che va a pogare due di garoni. Infatti. Carità, cazzo, lascio un cazzo di burro, cazzo. Non finisce qua. 28 gradi, c'è Marribindi. Ma si è capitato 40 gradi. C'è Ciro che 42. Ha fatto. Cazzo. Cazzo. Poi la parete così è già giusto un gatto con i soli. Andiamo. Cosa vuoi fare? Purtroppo le passamenti non si può andare, così che lasciamo le cose come stanno. Andiamo a sì, purtroppo. Purtroppo è così, Giulia. A proposito, ci ha graziato, è ricoperato, rotto. Porra, vuol dire, con che tuo gatto non avrà base a più? Che è giusto un colpo alla bettorra, ed era l'uguria, ed era già passato, hanno chiamato il corrente l'ambulanza, e meno male l'hanno ritirato già. Sicuri è ricoverato, è con l'ossigeno gli va. L'ossigeno verrà sempre, verrà. Faccio vedere che cosa... Ma che evento sono raggiunto? Sì, che è giunto, questo qua è tu. C'è parato in terra. Ciao. Così che vanno ricoverati in terra. C'è cosa ruggori? È giunto, grazie all'infarto, devi essere ho iniziato l'infarto. Prima o poi. Infatti, è andata a me. È andata a bene. Così che ci speriamo di essere rimessa via. Va bene. Fino adesso mia figlia, siccome la figlia lavora all'ospedale con mia figlia, capito? Sono insieme lavorando, me l'ha detto io ieri. Allora ho telefonato e già mi ha risposto, già mi ha risposto, però non riusciamo a capire da. Funziona da voce, io ho già una moglie a salire, mi ha detto che era. Che abbezzorente era, è diventato ragno, mi ha detto. Purtroppo sono cose che prima o poi qualcosa ti viene. Anche la moglie era il pronto soccorso, anche la moglie era ieri, era il pronto soccorso la moglie anche, ragazzi, senti chiamare anche la moglie. Dai sto gatto, mi ha te credo, devi lasciare quella base a più. Marcello, un Marcello. Tu ieri sera, che non ho... Ti ho chiamato, però non c'eri ancora, che è venuta mia figlia, pensavo che c'è questo particolare, capito? Ma quando sono tornato non c'eri più. Ho visto che ora è una cosa, ho detto, ma era serrato. Allora, chiuso anch'io. Tanto non fa nulla. Tu non fa nulla. Perché a me non mancano mai le visite. Quasi tutte le sere, cazzo. Chi va, chi viene, e per forza devi chiudere. Non fa nulla. Io sono uscito perché mi ha chiamato un altro inquilino del palazzo. mi ha tirato un pochino della lunga, quando sono rientrato, ho giocato in una linea, ho serrato. Faccio bene. Davvero, hai fatto bene, io infatti sono venuto per dirti che stavo chiudendo, che c'era gente, e invece non c'era nemmeno tu, per cui ho chiuso direttamente. Ah, vabbè. Niente di grave, per cui tranquilli, dai. Sì, vabbè, se non fa nulla, ci andiamo bene lo stesso. Purtroppo. E a parte che mi domanda, la mia pezza ciò che la salute è già torno a venire qua. Sì, da io. Ma sono qua. Ecco, ci sto. E così è. Per carità. Mi stanno volando così che guarda se è tutto caldo tu. Allora io c'è calore, questo è tutto calore purtroppo. Ma ti ce la vediamo. Ehi, cazzo, qua è qua si è accesa la e con il condizionatore in cucina si è accesa tutta la sera e dall'una fino a mezzogiorno fino alle 6:30 era sempre acceso. E qua in camera c'è la ventola, c'è un po' di freschetto con la ventola. No, ce l'ho anche io la ventola qua. Ce l'ho anche io, sto usando la ventola. Perché con il condizionatore a un certo punto da freddo, capito? Mentre invece, allora, sai cosa faccio? Quando è freddo la camera, tengo il condizionatore, accendo la ventola e con la ventola si fa veramente bene, dai. Poi fai tutta la sera con la ventola accesa, si fa veramente bene. Ma c'ho anche io qua di fronte la ventola, quindi già andare silenziosa, silenziosa. Non si interisce un rumore e quindi già va benissimo, un po' di freschetto me lo sta dando. Adesso vediamo un po' stanotte, speriamo che faccia un po' di freschetto, almeno io riposo bene, cazzo, da poi cazzo francese un whisky dolce, cazzo. Anche appena un po' di soccio c'ho anche, e questo è il condizionatore. Sì, infatti è così. Infatti è così, purtroppo. Un garone, beh, te lo bigliemmo, ma chissà domani se non comincia a tirare un po' di fresco. Se come detto che sta arrivando il maestrale, un po' di freschetto ci sarà anche caldo, però magari non caldo come ho fatto oggi e ieri, e quei giorni scorsi là. Già caroli la vendita, ma bello poco se l'avevamo bigliato sino a oggi, poi bisogna vedere da domani. Va, vediamo un po'. Abbaglia, cosa fa, per favore, cazzo. Cazzo, non si può mettere a valore, no. Certo, noi vestiamo una serugli, senza Eva, senza Caroli, è tutto asciutto. Cazzo, non faceva, lui ha... Perché di tutto, so, dappertutto è, cazzo. Fai visto, no? Chiesa. Pure di vigli si sono sacchetti. Infatti così. Purtroppo sì. E ce la teniamo così. Può morire là, può morire drone, così è. Andiamo. Chiesa. Hai portato, c'è meglio l'inverno, dai. Se freco, cazzo, se hai freddo, ti zappi e sei tranquillo. Cazzo, si può trattare un letto con una manza pesante e gli altri rompono macchette. Ma con un cazzo, come ci fai a dormire? Oh, sai, gira, sai. Ce la giappa, un punto di uscio. Cazzo, oh, non lo sopporto, non lo sopporto. Babbo? Cazzo. Che bisogna resistere, cosa resiste? Cazzo, non la posso dire. Oh, cazzo, cala a sentire, che se ne frega? Cazzo, cristiano, ma che è per la luce. Sì, va bene. Che mi ha dato? Senti, che mezzo di campagna? Allo freco, so. Che ha tenuto che mezzo di campagna? E la spiccia di via, scusa. Così che, puoi immaginare, per un freco di cadere, però di 7 mesi ero già in casa. Ah, già di 7 mesi ero in casa. Sì. Sempre a Rufreco. Sì, va bene. Andava così. Andava così, illusori, no, non rivisco. Beh, a Rufreco. Un attimino. Infatti. Purtroppo, ma non c'è fresco, sta bene. E allora, ma infatti, durante il giorno sono mancato pochissimo in fare la campagna. A chi sa poi durante la vita per caso, non ce fai, non ce l'hanno. Mamma mia, ragazzi. Mi sono là gli agrumi, accaramagliati. Cazzo, l'ha dato un po' di acqua. Chissà che ce lo ripigliano, cazzo. Per carità, tu puoi immaginare. Oh, yeah. Tutto così, tutto secco, Sì, no, è così, sì. Purtroppo, se gli dai un po' d'acqua, ma già se la trovano l'acqua loro sotto sotto le radici. Quindi già se la cercano. E abbiamo già fatto, si è barriata lei, va forse. Cazzo, a rinfrescare un po'. Per tutto è cazzo, magari c'è una lì per leva a irri cazzo a rinfrescare tutto e da poi magari un altro un po' continuava a fare, però mi pare che è tutto quasi invece. Sì, fatto è così, purtroppo se la ciappa niente gli altri sotto sotto l'acqua. Ma cazzo è il pezzino che ti confiete, cazzo, grande la macchia dritta, uno già grande ragazzi un bugno, cazzo. Cioè, ci sono le facce per un giorno che bruciate tutto. Sì, illusori, purtroppo. No, ma gli alberi già resistono. E così, se no la ciappa in fuoco già resistono gli alberi. Illusori. No, tutti però adesso. Secondo il tipo di alberi, magari, sì. Cazzo. Specialmente questi tipi che sono molto soprano, sopra, magari quelli che hanno le radici in fondo, molto a profondo, magari quelli che arricchiscono parecchio, ma quelli che sono superficie, quelli muoiono subito in questo caso. So. Sì, quelli sì, sono gli dai acqua, muoiono subito, sì. Allora la questione va bene, ma se non c'è la medicina e la seccagna brucia tutto, che non mangi niente. Andiamo bene così, andiamo. Purtroppo così. Certe volte gli agricoltori secondo cosa stanno e se fa qualche caldo così come fa? Certo. Hanno fatto avere un vignetto oggi alla televisione tutti i mondi sono sacchetti anche la terra è asciutta così che se puoi dire che l'annata è tutta buccia. Poi forse se non va neva da lampalli. Cosa fa? Purtroppo così. In certi posti sono già ma sono già fendi l'uva, stanno vendemmiando. Ma vabbè, è purtroppo, è purtroppo è così, capito? Va. Cazzo, la fila poi è in estate, è cazzo come quest'anno, sì quest'anno non è che abbia più punto cioè. Qua noi siamo in secco, siamo in secco, in certi punti c'è, ma in molti posti non ce n'è acqua. Purtroppo. Andiamo con la palla. Ho visto che vicino a Nuoro, vicino a un paese, il sindaco ha fatto va, 5 bosse ha fatto va. Ha sciolto di leva. Ecco cos'è, sciolto dice che c'è l'acqua. Purtroppo. Quelli gli stanno andando per innaffiare tutti gli olivi verdi, quanto ce n'è. Agricoltura, 2 pozzi. Nel terzo pozzo stanno andando per i pasturi. E gli altri 2 per le case. Hai visto? Che hanno fatto questi programmi, cioè, le pecore e le capre, anche le vacche, stava andata bene, lo vedevo tutti i periodi, tutti gli anni, e non veniva, e ci andava lì, cioè, tutti gli animali volevano rasenti, un camioncino che ha già l'antico sì, cazzo. Lo gioco, purtroppo. Chi se invece di essere appicciato più bene, a farci fare 5 mossi. Uno più lontano dell'altro. E l'acqua sotto ce l'hanno. Ecco cos'è, sotto di vengono i dragonari manni e tirano fuori l'acqua da lì. Questi agricoltori no, che fanno ostaggio, no, troppo bene a tutti i bombacca a fare la verdura cazzo. E sto cicchetti pure un po' anche i fiumi stanno seccando so. Se si tenne tutto se si tenne purtroppo, però so dureva per avermo, ecco cosa è, l'unica cosa è fare dei pozzi per tirare l'acqua da sotto. L'acqua noi ne abbiamo parecchio in Sardegna, però la lasciamo andare invece ritirarla, cioè a fare le provviste per l'estate. Ma lo sa che andiamo a avere i saggi, non abbiamo l'idea noi, però lasciamo andare a mare. La fanno, la buttano, ecco cosa è, la lasciano andare, la non riservano. Carità, forse hanno suonato, vai, speriamo che un macello, un attimo, ma sono qua, otto, via Gianmarino. E dai, ti ospiti, devo lasciarti, dai, aspettiamo domani se è qui. Grazie, la chiacchierata, salto di casa, sto chiuso. Via Gianmarino, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Gianmarino, fammi bene.